24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il vertice tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e il premier greco George Papandreou, che ha chiuso una settimana ad alta tensione sulla crisi ellenica. Aiutare la Grecia a uscire dalla crisi è un obbligo morale, ha affermato Sarkozy. Vi parleremo dell'allarme della Commissione europea sull'occupazione italiana e torneremo sulla procedura di infrazione comunitaria sulla crisi rifiuti in Campania. A chiudere vi racconteremo un progetto media molto interessante, una library collettiva per tramandare la storia così come raccontata da radio e televisioni di tutta Europa. Aiutare la Grecia a uscire dalla crisi del debito è un obbligo morale ed economico dell'Europa, lo ha affermato il presidente francese Nicolas Sarkozy al termine dell'incontro di venerdì a Parigi con il premier greco George Papandreou. Il fallimento della Grecia, ha aggiunto Sarkozy, sarebbe il fallimento di tutta l'Europa. Da parte sua Papandreou ha affermato che Atene è determinata a fare i cambiamenti necessari. Stiamo facendo sacrifici per portare avanti le necessarie riforme e vogliamo fare della Grecia un paese diverso e migliore non soltanto per i greci ma per tutta l'Europa, così ha aggiunto Papandreou. Intanto è stato confermato che martedì la cancelliera tedesca Angela Merkel sarà in visita alla Commissione europea a Bruxelles, dove è in programma un incontro bilaterale con il presidente Giuseppe Barroso e un pranzo di lavoro con il Collegio dei Commissari. All'ordine del giorno la crisi del debito sovrano e la situazione economica in Europa. Sul fronte borsistico i dati macroamericani positivi non sono bastati a risollevare gli indici europei, penalizzati in particolare dal balzo dell'inflazione a settembre. I riflettori restano puntati sulla Grecia, in attesa dello sblocco della nuova tranche di aiuti per evitare il default. Milano, in calo dell'1,39%, registra la performance migliore insieme a Madrid. Sentiamo. Le borse europee hanno chiuso in calo l'ultima seduta di settembre, archiviando però la settimana con un bilancio positivo. A Milano il FTSE MIB ha segnato un rialzo dell'8,6% negli ultimi 5 giorni, nonostante il meno 1,39% di venerdì. A penalizzare i listini è stato soprattutto il dato sull'inflazione, che in Europa a settembre è balzata al 3%, allontanando quindi un possibile taglio dei tassi da parte della BCE. I riflettori restano comunque puntati sulla Grecia, in attesa dello sblocco della nuova tranche di aiuti per evitare il fallimento. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. L'economia italiana si sta riprendendo con passo modesto dal 2009 e come conseguenza la capacità di creare posti di lavoro resterà debole per altro tempo, lo afferma il rapporto sull'occupazione pubblicato dalla Commissione europea. Sentiamo. La nostra capacità di creare posti di lavoro resterà ancora debole. È la diagnosi della Commissione europea nell'ultimo rapporto sull'occupazione, visto che, spiega Bruxelles, l'economia italiana si sta riprendendo dal 2009 con passo modesto. Eppure i dati di oggi dell'Istat indicano che la disoccupazione in Italia è calata ad agosto al 7,9% dall'8% di luglio. Gli occupati tornano a superare quota 23 milioni, il valore più alto negli ultimi 2 anni. Ma è la disoccupazione giovanile che non accenna a diminuire, anzi, i ragazzi tra i 15 e i 24 anni senza lavoro ad agosto erano il 27,6%, lo 0,1% in più rispetto a luglio. Segnali negativi anche della disoccupazione di lunga durata. I senza lavoro da oltre un anno, infatti, adesso costituiscono il 52,9% del totale, il dato più alto dal 1993. L'Istat ha anche diffuso gli ultimi dati sull'inflazione, che registra una nuova impennata dei prezzi nel mese di settembre. Secondo le stime preliminari, questo mese l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,1% rispetto ad agosto e del 3,1% su base annua. È il livello più alto dall'ottobre del 2008, quando l'inflazione era al 3,5%. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Regione, provincia e comune di Napoli e della Campania hanno deciso di chiedere un incontro al commissario europeo all'ambiente Janez Potocnik al fine di indicare soluzioni condivise volte a evitare le sanzioni e ottenere lo sblocco dei fondi comunitari necessari anche per il completamento dell'impiantistica. Lo afferma una nota congiunta al termine di un incontro che si è svolto a Palazzo San Giacomo, un incontro che segue l'ultimatum comunitario sulla crisi rifiuti. 2 mesi per ripulire Napoli. Finiti gli appelli, gli incoraggiamenti e le messe in guardia, l'Europa lancia il suo ultimatum all'Italia sull'emergenza rifiuti in Campania. 2 mesi di tempo scaduti, quali scatteranno multe anche molto pesanti. È da mesi che il commissario UE all'ambiente, Janez Potocnik, mette in guardia sul mancato avvio di un corretto ciclo dei rifiuti con gravi pericoli per la salute ambientale. Il 4 marzo 2010, infatti, l'Italia subì la prima condanna della Corte di Giustizia UE per non aver adottato tutte le misure necessarie locali per smaltire i rifiuti. In caso di seconda condanna, il conto potrebbe risultare molto salato, visto che le sanzioni verrebbero applicate sulle carenze di gestione passate e future. Ma nel mirino della Commissione c'è anche altro. Il nostro paese, infatti, risulta altrettanto inadempiente in materia di trasporti, energia, pesca, appalti pubblici e gestione dei servizi finanziari. Entro 2 mesi, dunque, dovrà risolvere il problema dell'uso illegale delle reti da posta nel Mediterraneo, adeguarsi alle norme europee in materia di efficienza energetica degli edifici, introdurre un sistema di classificazione del rischio in merito al rispetto del periodo di guida e delle pause dei conducenti e correggere l'attribuzione degli appalti per i servizi informatici nella regione Molise, ma potrebbe anche farcela. Del resto, nel 2010 l'Italia risultò il paese con più procedure di infrazione al diritto comunitario, ben 176, ma alla fine, entro l'anno, riuscì a chiuderne il 40%. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Giovedì la condanna a Milano per le quote latte per truffa all'Unione Europea, ma da noi anche in altri settori stanno aumentando le truffe ai finanziamenti comunitari, come denuncia Giovanni Kessler, il magistrato italiano dell'OLAF, l'organismo antifrode di Bruxelles. Lo ha intervistato Raffaella Calandra per la rubrica Ciascuno il suo. Purtroppo frodi ci sono ancora in Italia. Devo dire, i casi rispetto agli altri paesi sono anche di numero superiore. Quello che possiamo dire dell'Italia la distingue dagli altri paesi, dagli altri 26 paesi membri: siamo nella fascia alta in termini di casi, di numeri registrati di frodi al bilancio europeo, ma anche che l'Italia è tra i paesi che più reagisce a questo. Quando sono cominciati i finanziamenti c'era una percentuale molto forte di frodi che avessero a che fare con l'agricoltura e la formazione. In questo momento com'è la situazione? Fino a qualche tempo fa la gran parte dei fondi che l'Unione Europea, la Commissione Europea andava spendendo nei paesi membri era dedicata al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura. C'è una maggiore diversificazione degli investimenti, c'è un enorme incremento, io credo anche giusto, incremento dei fondi spesi per la ricerca, ed ecco allora che cominciano a spuntare le truffe anche nella ricerca. Insomma, il motivo è che dove si spende di più ci sono più truffe inevitabilmente. Volano i prezzi dei generi alimentari e dei carburanti nelle aree di crisi, in cui la siccità si fa maggiormente sentire nell'Africa dell'Est. Una crisi che investe un'area vasta quanto la Francia, a cavallo tra Somalia, Kenya, Etiopia, e che ora allarma il neonato Sud Sudan. Proprio mentre si chiude la stagione delle piogge, avanza quella del raccolto. Una guerra a bassa intensità che i piccoli agricoltori e allevatori dell'Africa orientali non combattono certo per la prima volta, e che ad ogni battaglia persa si rifugiano nella fuga e nella migrazione. Nell'agricoltura di sussistenza, raccolto significa scorte, accumulo, mettere da parte per i mesi asciutti. A differenza delle crisi alimentari degli anni Ottanta, un ruolo chiave lo svolge il prezzo dei beni. Nel nord-est del Kenya, uno degli hub commerciali della regione, il mais al quintale è cresciuto del 240% in un anno, mentre a Juba, capitale neonata del Sud Sudan, un litro di gasolio costa anche $20 e arriva solo dall'Uganda. L'intervento internazionale resta la chiave di un equilibrio instabile, e l'Europa svolge un ruolo primario, con 661 milioni di euro investiti nel 2011 nei programmi di aiuto umanitario. Il vecchio continente ha assicurato un terzo dell'intero sostegno internazionale, un fiume di denaro che alimenta ONG e governi della regione. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. In chiusura una notizia che farà sicuramente piacere a molti di voi: una library collettiva per tramandare la storia raccontata da radio e televisioni di tutta l'Europa. Questa la proposta lanciata a Torino al Congresso Mondiale degli Archivi Televisivi. Il direttore delle teche della RAI, Barbara Scaramucci. Noi pensiamo, e anche molti colleghi in occasione del Congresso Mondiale della Federazione degli Archivi sono d'accordo, che tutto sommato, ad esempio in particolare l'Europa, potrebbe costituire un qualcosa simile alla Library of Congress degli Stati Uniti, cioè ogni emittente ricostruisce la storia della sua emittente televisiva, ad esempio fornendo 500 titoli che sono i più significativi, e potrebbe essere questo magari fatto anche attraverso l'Unione Europea delle emittenti radiotelevisive, le BU, anche con una magari distribuzione fra i paesi membri di questo materiale con regole un po' diverse dalle normali vendite commerciali.